Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Ed eccoci qua, ben ritrovati a tutti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Mi volto, Carlo, Milano-Monterosa oggi. Al momento sembra buono, poi è molto presto, c'è molto silenzio, non so se si può dire questo. Anche a, anche a casa mia stamattina. Beh, alle 7 meno quattro. No, a casa mia stanno organizzando la fiera, quindi c'è un fermento nelle strade, infatti non si poteva passare col motorino, ho dovuto fare dei giri delle capolle. Ah, vedi, invece in zona Buenos Aires, insomma, proprio un silenzio, che ho anche fatto uno Snapchat dicendo c'è un silenzio diverso dal solito. Però c'è un sole silenzio. E quindi c'è, esatto, ottimismo. 800 24 00 24, vi aspettiamo come ogni domenica, come ogni sabato, come ogni domenica, per stare con noi, per raccontarci le vostre buone notizie, se volete. Ripercorriamo un po' di questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle e dove è possibile raccontiamo anche qualche buona pratica, e poi cerchiamo naturalmente un personaggio di questa settimana. Potete portarvi a casa i biglietti della splendida mostra di Basquiat, il grande writer americano al MUDEC di Milano, però dovete indovinare per primi chi è il personaggio di questa settimana. Vado col primo indizio. Devi andare a sapere il primo indizio, come sempre un personaggio che ha una notizia legata, sì, a questa settimana, per il quale, per aiutarvi a indovinarlo, vi daremo degli indizi man mano. Ha vissuto un momento di gloria il personaggio di questa settimana, quindi pensate qualcuno che abbia vissuto un momento di gloria. 800 24 00 24. Ieri abbiamo chiuso la puntata con la questione degli asili della Brianza. Stamattina Giulia Crivelli, che ha fatto la rassegna stampa, ci segnala che c'è polemica a Milano su questa cosa, perché una consigliera della giunta vorrebbe fare gli asili aperti 17 ore al giorno, anche la notte, un po' come hanno cominciato a fare anche in Brianza, il venerdì, un venerdì al mese, ma i sindacati sono contrari perché non c'è personale. Ah, certo. Abbastanza. Un peccato. Lo si troverà. Si può trovare qualcuno. Forse. Esatto, visto che c'è anche bisogno di lavoro. Un aumento dell'offerta. A noi sembra una buona idea il cosiddetto asilo notturno, di modo che i genitori possono almeno ogni tanto portare i figli e andare al cinema. Ma tra l'altro si parla di 3 ore, quindi non esattamente dei weekend lunghi. Allora andiamo ad iniziare, vai. Non è questione di piacere o non piacere, analizzate il fenomeno, analizzate che cosa vuol dire che hanno sbagliato da 20 anni la politica estera degli Stati Uniti. Trump non crede all'effetto Serra, lei cosa ne pensa? Ma può credere quello che vuole. Adesso diventerà il presidente, diventerà secondo me un moderato. Io le informazioni su Trump sono quelle che avete dato voi, e allora, dato che io non credo più alle vostre informazioni, di Trump sulla bene, quando li leggeremo adesso vedremo. Ma io, ma cosa c'entro io con Trump? Ma la smettete, brutti Walking Dead che non siete altro. E allora, questo era uno di quelli che hanno abbastanza esultato per la vittoria di Trump. Conoscendo Grillo possiamo tranquillamente stare sereni, però insomma questo Walking Dead, questo prend... forse bisognerebbe cominciare a distinguere tra giornali e giornalisti. Non voglio fare la difesa d'ufficio della categoria, anche se potrebbe sembrare e sembrerà magari così, però insomma bisogna distinguere tra i giornali e i giornalisti, perché su questa storia di Trump non è che i giornalisti hanno raccontato la loro verità su Trump dicendo vincerà la Clinton, hanno riportato i sondaggi, hanno fatto delle analisi, i giornali erano schierati a favore della Clinton, i giornali erano sicuramente, i giornali schierati, sono finanziati da grandi gruppi imprenditoriali, economici, i più grandi del mondo, ma i giornalisti che stanno lì, spesso alcuni precari con i microfoni che vanno a intervistare Grillo, non c'entrano nulla con questo. Ma sì, mi sembra più interessante il dato di Grillo, del fatto che dica Trump ha fatto un vaffa day, era contro tutti, era contro le donne, contro i gay, contro l'aborto, eppure ha vinto, e fa un po' il paio con se stesso, e questa cosa qua è un po' strana, nel senso che dice l'informazione su di lui, i grandi giornali non le leggeva nessuno, eppure lui ce l'ha fatta anche se era contro tutto, il che vuol dire che questa democrazia come funziona? Che se anche sei contro tutto, anche contro tutti i diritti civili, se va bene così, non sono più giornali che contano, ma conta quanto riesci a farti sentire sui social, molto pericoloso. E insomma, con questo risultato, con questa elezione di Trump, sono in molti ad avere quasi nostalgia per un suffragio non universale, perché ho detto ma questi non devono avere il diritto di voto perché hanno votato per Trump, una teoria ovviamente strampalata, io non lo penso minimamente, io non penso che siano stupidi. Senti un po' chi è che non dice questo, però dice è l'evento più sconvolgente da quando c'è il suffragio universale. Forse si dimentica Giorgio Napolitano di passate elezioni un po' più sconvolgenti, tipo quella di Adolf Hitler, no? È stato comunque eletto, adesso dico una banalità, però insomma, sentite il parere di Napolitano. Ma siamo dinanzi a uno degli eventi più sconvolgenti della storia della democrazia europea e americana. Direi uno degli eventi più sconvolgenti della storia del suffragio universale. Che goduria! Perché fino a ieri, se simpatizzavi un minimo con Trump, eri un po' un maniaco sessuale, sicuramente un evasore fiscale, un tizio coi capelli strani. Ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai. Sei ricco e ti tirano le pietre, sei ricco e ti tirano le pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va, e pietre prenderai senza pietà. Sarà omaggio ai nostri ascoltatori dalla memoria più lunga con questo Antoine, e adesso sentirete perché. Insomma, noi lo diciamo sempre che ci sono dei bravi sindaci, dei bravi amministratori che fanno delle cose egregie, rinunciano agli stipendi per fare delle cose buone per la loro collettività, che hanno degli slanci, ma che un sindaco e un assessore di un comune di 600 abitanti potesse essere multato 12.000 euro per aver potato degli alberi e degli arbusti, forse non si è. E aver fatto risparmiare alle casse del comune almeno 2.000 euro. Ecco noi il protagonista di questa storia, il sindaco di Gombito in provincia di Cremona, Massimo Caravaggio, buongiorno. Buongiorno, come di Gombito. Gombito, stavo per chiedere se l'accento era giusto, infatti lei mi ha prevenuto giustamente. Gombito, diciamolo. Allora, ci racconti che cosa è successo? Io l'ho detto in sintesi, vada. Sì, diciamo che giusto come ha detto lei, per far risparmiare un po' di soldi al comune, anche perché non sono periodi di abbondanza, abbiamo deciso io, l'assessore, un consigliere insieme al cantoniere di eseguire dei lavori di potatura, perché dovevamo svolgere dei lavori di sostituzione dei giochi ormai obsoleti di un parchetto comunale. Dal momento che, come dicevo, carenza di soldi e di buona lena e di buona volontà, ci siamo messi noi a fare il lavoro. Malvene in corsa, perché è successo. Cosa è successo? Andiamo a sintesi, che poi devo fare le informazioni sul traffico e continuiamo allora, dopo. In sintesi è che abbiamo avuto una contestazione da parte di un consigliere di minoranza che ha fatto poi un esposto alla TS, quindi ex ASL, mi ha rispettuato dal lavoro, che hanno eseguito le loro verifiche e mio malgrado io risultavo come il lavoro è stato inquadrato come se io fossi il datore di lavoro come sindaco, quindi legale rappresentante del comune, e loro dai dipendenti che non erano formati a svolgere quei tipi di lavori. Pertanto evasione dei contributi mi sembra un cavillo sbaglio. Allora, non è un cavillo, nel senso che la normativa per quanto riguarda la formazione, quindi anche il discorso della sicurezza sui luoghi di lavoro, è anche una normativa ben fatta. Sì. Però io mi chiedo, laddove non c'è ovviamente un rapporto di lavoro, cioè quindi prestazioni di lavoro in cambio di soldi, laddove c'è un volontariato perché appunto non ci sono i soldi, io cosa devo fare se non ho i soldi per incaricare una ditta? Io mi ci metto in prima persona, ci mettiamo noi come amministratori in prima persona, non si può applicare una normativa laddove va bene in un campo, in un ambito lavorativo, laddove invece c'è un volontariato puro, dove non c'è uno scambio di soldi in cambio di prestazioni, cioè non ha senso. Non so se mi spiego, quindi la normativa assolutamente. Ma non applicato in questo ambito, cioè non ha, cioè ci ha lasciato veramente basiti e poi anche arrabbiati. Anche noi siamo rimasti abbastanza basiti. Devo dire che insomma, l'iniziativa del consigliere di minoranza rientra in una dialettica politica che però fa un po' fa un po' a pugni con la realtà, fa anche un po' ridere in un comune di 600 abitanti come questo. Adesso però ci faccio fare le informazioni sul traffico, poi torniamo e finiamo di raccontare questa storia che appunto noi siamo rimasti abbastanza a bocca aperta, perché insomma tentare di fare voi stavate praticamente ripulendo un giardino dove dovevate sostituire i giochini dei bambini, no? I giochi dei bambini, esatto. Adesso immagino il cantiere sarà sotto sequestro o cose di questo genere, no? No, perché diciamo che il lavoro si è svolto in 4 giorni in tutto, ora che è stato partito l'esposto e noi avevamo già finito, quindi non è che poi non è che siano stati commessi dei delitti, la cosa è puramente amministrativa. Non avete potato alberi secolari o cose di questo genere, fatto degli scemi? No, assolutamente no. Vabbè. E non sono morti alberi, come ho sentito dire, che ci hanno attribuito l'abbattimento e l'uccisione comunque di alberi. Non sono morti alberi, non abbiamo abbattuto alberi, abbiamo solo potato. Ecco, benissimo. Certo. Torniamo tra... Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Eccoci qua, 8 e 51 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Vi ricordo anche che stiamo cercando un personaggio di questa settimana che ha vissuto un momento di gloria. Cercate nella vostra mente e chiamate all'800 24 00 24 qualcuno che abbia vissuto un momento di gloria in questa settimana. Siamo in compagnia del sindaco di Gombito, in provincia di Cremona, Massimo Caravaggio, che insieme a un assessore nell'azione di ripulire un giardino tagliando degli arbusti si è beccato, su segnalazione di un consigliere di minoranza, una multa dell'INPS. Che il consigliere di minoranza ci abbia provato mi sembra legittimo, che l'INPS abbia fatto questa multa ci sembra lunare, ma insomma questo è quello, anche perché quando uno frega le regole, non rispetta le regole, in genere lo fa per un proprio tornaconto. Non era questo il caso del sindaco. Ma mi scusi sindaco, la cosa che le volevo chiedere, il consigliere comunale d'opposizione, che è Chiara Baini, che ha segnalato il suo operato all'ispettorato del lavoro, secondo lei come bisognava fare? Se voi dovete potare degli alberi, non ci sono i soldi, come bisogna fare? Aspettare che cadesse. Francamente è una risposta quale? Noi abbiamo dato la nostra risposta, attendere la risposta dall'altra parte, nel senso che bisogna chiedere a lei. Ovviamente bisogna tagliare o aumentare, come si fa sempre quando non ci sono i soldi, aumentare ulteriormente la pressione fiscale per cercare di introitare quei soldi per far fare dei lavori, ma non mi sembra il caso in una situazione, in un momento come il nostro. Fra l'altro noi siamo un paese estremamente indebitato, e questo non ovviamente per causa nostra, ma fra l'altro per causa di chi fa parte di un gruppo che ha mosso questa denuncia, e trovandoci ovviamente nell'impossibilità di far fronte, che cosa possiamo fare? O ci si rassegna a vivere nelle condizioni in cui si è, o si prende l'iniziativa come abbiamo fatto noi e ci si mette in prima certo. persona. No, io è sempre, al di là di tutto, resta secondo me una un buon esempio quello che abbiamo dato. Poi dopo si può scendere anche nel merito del lavoro, come è stato svolto, che non siamo dei professionisti e tutto quanto, come si sta facendo adesso, nel senso che adesso ci contestano il lavoro che abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto male, quant'altro. Ecco, no, questa parte è importante però capirla, nel senso che se dall'altro lato il consigliere comunale dice l'hanno fatto loro, però gli alberi stanno morendo, cosa che lei ha già negato, allora è quella la questione, dice hanno fatto un lavoro fatto molto male, allora a quel punto non importa il risparmio, ma non mi sembra che sia andata così. No, perché gli alberi sono ancora lì, sono vivi e vegeti, e quindi diciamo che lungi da correre il rischio di morire questi alberi. Dopodiché possiamo questionare sul modo migliore per farlo. Okay. Adesso fra l'altro mi sono fatto anche una cultura della potatura, quindi dovessi rifarlo, probabilmente lo faremo anche meglio. Ma infatti adesso noi la chiamiamo da Milano perché abbiamo scoperto che lei porta gli alberi gratuitamente nei weekend insieme al suo assessore, ne siamo contentissimi e la chiameremo spesso. Incassando multe sempre più straordinarie. Esatto. Io vorrei chiudere questa intervista ricordando semplicemente che esiste, non so quanto possa fare al caso, a questo caso, il regolamento per l'amministrazione condivisa portato avanti da Labsus, li abbiamo intervistati, che cercano proprio di entrare in questa faccenda, cioè hanno trovato un modo per aggirare i cavilli della burocrazia, non per aggirarli, ma insomma per rispettare tutte le norme anche di sicurezza, pagando piccole assicurazioni per gli interventi di volontariato, in modo da garantire a questi gesti di volontariato una forma accettabile e che possa, diciamo, evitare il caso in cui è in corso lei. Le facciamo in bocca al lupo a lei, al suo comune, a tutti, insomma, ai bambini che devono andare a giocare nel giardinetto. Speriamo che il caso si risolva. Intanto la salutiamo. Dobbiamo chiudere qua, c'è il giornale radio. Grazie sindaco, anche grazie, se so che buona avrebbe giornata. Voluto entrare nella faccenda ancora, ma insomma, noi ci fermiamo qua. Sono 30 secondi, abbiamo un ascoltatore, Giorgio da Modena, buongiorno, sì, però velocissimo. Buongiorno. Sì. Intanto la mia solidarietà al sindaco, perché ovviamente ha fatto una cosa lodevole. Sì. Purtroppo in Italia le cose lodevoli non vengono mai premiate, soprattutto se si parla di lavoro, se si parla di lavoro non retribuito. Abbiamo un'impostazione che lega questo tipo di lavoro a diciamo sempre... Devo chiudere Giorgio, devo chiudere, c'è il giornale radio, ci risentiamo dopo, 800 24 0024. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. In fondo lui, che ha sempre anche predicato l'eutanasia, cioè il diritto di non soffrire, lui in qualche modo non ha voluto essere curato alla fine, non ha voluto essere ricoverato, non ha voluto nessun prolungamento, ha voluto andarsene, e questo è stato insomma inevitabile, siamo andati in via in maniera naturale. Ecco. Eccoci qua, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Così può fare, siamo insieme fino alle 10, 800 24 00 24. Questi era Alberto Veronesi, il figlio di Umberto Veronesi, che ha ricordato come suo papà ha deciso di vivere gli ultimi giorni della sua lunga e incredibile vita, lo abbiamo ricordato ieri. 800 24 00 24, un po' di voci di questa settimana e naturalmente anche un personaggio che andiamo cercando. Il primo indizio che vi abbiamo dato, ascoltatori, è che ha vissuto un momento di gloria. Il primo che indovina il personaggio di questa settimana si porta a casa i biglietti di Basquiat al Mudec di Milano, e quindi cercate qualcuno che abbia vissuto un momento di gloria, pensate, in questa ultima settimana. Una notizia, tac, 800 24 la notizia 00 è molto 24. Bella, la notizia è molto bella. Allora, sono di questa settimana anche la Leopolda e un intervento di Berlusconi che ha sciolto formalmente le riserve sul cosa voterà al referendum. Cominciamo con Farinetti, poi Berlusconi. Ve lo dico col cuore, dobbiamo ritornare a essere simpatici. Questo è un tema. A volte ho la sensazione che siamo diventati un po' antipatici. Ed è normale. Chi governa per qualche anno tende a diventare antipatico. Ma noi dobbiamo tornare... Torniamo a Renzi. Ha pensato a questa riforma, l'ha voluta tenacemente, l'ha imposta al Parlamento guardando solo a se stesso e al Partito Democratico. Si è voluto cucire un abito su misura a costo di spaccare in due il Paese. E già questo sarebbe gravissimo, perché la Costituzione riguarda tutti. E allora, questo era Berlusconi sul referendum. Come sapete, vi facciamo risentire un po' di voci. È curioso, Berlusconi, un videomessaggio su Facebook. L'anziano leader alle prese con le nuove tecnologie. Va bene, stiamo cercando, lo ripeto, perché per voi, cari ascoltatori, diamo un secondo indizio, aspettiamo. Ha vissuto un momento di gloria il personaggio della settimana che andiamo cercando. Tra poco vi daremo anche un secondo indizio, vi diamo una mano. Allora, andremo a Parigi durante questa puntata, anche noi, con Leonardo Martinelli, per vedere com'è andata questa serata al Bataclan. Però cioè, vi facciamo sentire questa... Ce l'abbiamo l'aca degli studenti neozelandesi? Vai, poi la commentiamo. Questa dobbiamo spiegarla, dobbiamo però spiegarla, perché sennò bellissima questa. Sono gli studenti che per il professore John Adams della Palmerston North Boys High School in Nuova Zelanda, che è andato in pensione, che per salutarlo prima della pensione tutta la scuola ha fatto questa aca struggente. Sì, erano tantissimi. Eccola qua. Come sempre, molto impressionante vedere queste scene, questa bellissime. Danza maori. Ci è piaciuto che per un professore che va in pensione si sia mobilitato a questo tipo di energia. Pensa lui come deve essere stato emozionato a vedere tutti i suoi studenti che lo salutavano in questo modo. Sarebbe una cosa quasi da fare sempre, no? Sì, quando... che poi a vederla è molto bella, a sentire solo l'audio sembra anche un po' che quasi che l'abbiano cacciato. Sì. Non è andata così, è una bellissima danza maori. Pensa tradizionale a farlo negli uffici italiani, ogni volta che uno va in pensione per salutarlo tutti che cominciano a saltare. Beh, come vanno le pensioni in questo paese, direi che comunque se ne fanno solamente due all'anno, quindi non darebbe più di tanto fastidio. Abbiamo all'800 24 00 24 Pietro che ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Qua. Prego. E salve, io pensavo che fosse Trump il personaggio della settimana. Tra l'altro l'ha detto in un modo come per dire pensavo che fosse Trump al telefono, cioè pensavo che stesse aspettando una telefonata di Trump. Magari. Le possiamo chiedere qual è la notizia legata a Trump di questa settimana? Ha vissuto naturalmente un super momento di gloria, è ovvio. Ma non era il personaggio. Diciamo che insomma, non era il personaggio che abbiamo scelto. E forse è un caso in cui non possiamo nemmeno dire, ma ti ringraziamo d'aver ricordato questa notizia, perché insomma della notizia abbiamo parlato tutti tanto e tantissimo. Quindi cercate ancora qualcuno che abbia vissuto un momento di gloria. 800 24 00 24 tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia. C'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del... Siamo partiti così, leggeri, l'abbiamo toccata piano per parlare della nazionale di calcio sponsorizzata da una società di scommesse, la Intralotto. Abbiamo preso così, mi vendo, giusto per fare una leggera velata allusione alla svendita forse dei valori del calcio, dello sport, eccetera eccetera, dietro a questa questione che continua a sollevare polemiche nel mondo del calcio, anche della politica, e abbiamo deciso di parlarne con Renzo Olivieri. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buongiorno mister. Grazie mister per essere con noi. Buongiorno. Di domenica mattina, presidente tra l'altro dell'Associazione Italiana Allenatori, ancora presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, vero Olivieri? Ormai sì, da tanti anni gli allenatori si affidano a lei. Sì, sono 3 mandati, sì. Infatti sono molto contento di sentire il mister, sono venuto in radio in tuta perché ho detto la domenica mattina sentiamo il mister, ci mancherebbe altro. Sono un po' fuori forma, ma insomma. Vabbè, ma quello tutti. Allora, tra poco parliamo naturalmente di questa importante questione. Ieri però ha giocato la nazionale, parliamo un attimo anche di questo. 0-4 con il Liechtenstein, l'ho detta giusta perché abbiamo giocato fuori casa. L'ha vista la partita, Olivieri? Perché... Sì. La domanda è d'obbligo perché ormai le partite della nazionale non le guarda quasi più nessuno, credo. Purtroppo. No, io le guardo. Ma una partita facile, sensatoria, sì. Quindi. Però siamo abituati che per noi di partite facili non ce n'è. Poi in più sono interista, quindi direi che proprio per noi di partite facili non ce n'è, neanche per l'Italia. Ci sono dei valori tecnici che sono diversi, sì. Via, sproporzionati tra la però la Spagna gliene ha dati 4 a loro, la Spagna gliene ha 8 gliene ha rifilati, noi solo 4, la metà. Sì, a volere, io credo che a un certo punto ci sia stata anche la volontà di non infierire, ecco. Siamo stati buoni, vuol dire. Sì. Senta, so che forse qualcuno aveva scommesso sul 4-0. Giusto per stare in tema. È una battuta, è ovviamente una battuta, visto che dobbiamo parlare di Intralot. Senta, però ancora un attimo sulla ma le piace questa nazionale? So che non può dire male di un collega, Ventura, male, bene, insomma, qualcuno ha detto poteva esserci un allenatore magari più importante, con più successi alle spalle, ma insomma, al di là di quello, le sta piacendo questa nazionale azzurra? È una nazionale in costruzione. Oltretutto, secondo me, in un passaggio difficilissimo, che non sarà immediato, perché Buffon, Bonucci, Chiellini, Bazzani, che andranno avanti ancora per un po'. Però è una nazionale che deve pensare ai ricambi, quindi un passaggio non semplice, perché la forza di questa squadra notoriamente è stata in questi 4 uomini. Certo, che hanno vinto un bel po' e ci hanno garantito... E che hanno una certa età, sì, insomma, giustamente vita. Andranno avanti tantissimo, però tanta hanno vita, una certa sì. età e lo sappiamo tutti. Va bene, parliamo di Intralot, è arrivato il momento, togliamoci il dente avvelenato. Lei è tra quelli, Olivieri, che si è detto un po' contrario a questa sponsorizzazione di una società di scommesse della Nazionale di Calcio, perché? Ma intanto... fare una premessa: fra tutti coloro che si scandalizzano, dico, vorrei che si ricordasse che ci sono giornali, la RAI, lo Stato che prende soldi dalla scommessa, quindi bisognerebbe andarci cauti prima di parlare, tanti di coloro che hanno parlato. Il problema secondo me era quello di legare le scommesse al nome della nazionale e alla maglia della nazionale. Ci sono calciatori che a livello individuale fanno pubblicità per le scommesse, vediamo di tutto da questo punto di vista. Nessuno si era mai scandalizzato. Io dico, con la maglia della nazionale, alla quale noi diamo un valore tutto morale, un valore morale importante, secondo me, secondo noi, secondo i nostri allenatori, perché io ho agito cercando di interpretare i sentimenti della nostra base, è inopportuno, almeno inopportuno. Bella questa parola, scusi Olivieri, sì, la interrompo solo per questo, che l'ha usato questa parola base, la nostra base degli allenatori, cioè già faccio fatica a immaginarmi questa idea di una base di allenatori, che invece ci sono, no? Allenatori che fanno anche volontariato di squadre minori, che credono nel calcio, magari sognano che i loro piccoli pulcini diventino dei grandi calciatori. Esiste ancora questa base ed è da lì che viene la richiesta che il calcio sia pulito e sia lontano, per esempio, anche dal tema delle scommesse? Allora, guardi, a me hanno emozionato questi allenatori che mi hanno scritto e mi hanno mandato messaggi, che sognano, che i loro piccoli diventino calciatori, ma tantissimi dai loro messaggi si vede che sognino, che sognano che i loro bambini, bambini che hanno sotto di sé, diventino dei bravi cittadini. La loro missione la intendono anche così. Anche così, stesse. Anche così. E qui e viene il sono problema. Sono stati loro, tantissimi di loro che hanno ritenuto questa cosa. Noi come associazione abbiamo fatto una cosa semplicissima, siamo andati dai responsabili, da chi aveva stipulato questo contratto, che poi non è neanche la federazione ma è Interlotto, comunque è coinvolta la maglia della federazione, abbiamo fatto certo. Questa proposta, o si riesce a venire fuori da questo contratto oppure i soldi che arrivano da questo contratto vengono impiegati e dati a quelle associazioni che lavorano per la cura della ludopatia e malattie simili. Oh, finalmente qualcuno che fa una proposta, perché questo è interessante, no? Voglio dire, il presidente Savecchio ha accettato questa cosa, ma ha detto la puoi comunicare, che la federazione è venuta dietro a... Ah, quindi ci sta dando una notizia, proposta. È così? Perché fino a, non sì. Mi sembra che sia ancora uscita questa cosa. Cioè, No, ne avevo già parlato. No, la proposta sì. No, sapevamo che era una sua proposta, sì. Ma adesso ci sta dicendo che Tavecchio ha accettato la proposta e quindi così sarà. Sì, ma l'aveva accettata subito, sarà così. E quindi, insomma, credo che in tutta questa situazione questo modo di andare ad incidere su chi si impegna su questo campo, che dovesse essere una soluzione accettabile. Ma mi scusi, la cosa che io mi chiedo, nel senso che da un lato è comprensibile il suo punto, però il gioco d'azzardo in Italia è legale, ovviamente stiamo parlando di gioco legale, e nessuno, per dire, finché il Totocalcio funzionava meglio di quello che funzionava adesso, il Totocalcio finanziava il gioco del calcio in Italia e nessuno si scandalizzava per questo. Mi chiedo come mai adesso invece che ugualmente sappiamo bene che dalle scommesse arrivano anche dei soldi di tasse allo Stato, invece diventa un problema di legarlo alla nazionale. È molto diverso il concetto del totocalcio di una volta dalle scommesse di oggi. Oggi questo fatto può prendere il discorso delle slot machine o di altri tipi di giochi, no? Ci sono persone che si perdono dietro a questo, per cui ci sono associazioni che cercano di impegnarsi nel recupero di queste persone. È tutta una problematica della quale si sta interessando anche il Ministero della Salute, voglio dire, da una parte una cosa e da una parte un'altra. Forse sarebbe meglio la prevenzione, non pubblicizzare. Abbiamo visto che anche in questo senso il proibizionismo non porta bene. Esatto, non funziona mai il proibizionismo. Non funziona. Sì, Però io dico, un altro tipo di approccio a tutta questa problematica io credo che sarebbe più opportuno. Beh, insomma, in effetti è cambiato un po' dal Totocalcio, si giocava una volta alla settimana, adesso le scommesse le puoi fare 24 ore al giorno. La base, quello che dicevo, certo. Che la base, nel senso che ho sentito Paola Abinetti che scandalizzata diceva immagino le partite di calcio interrotte dalla pubblicità del gioco d'azzardo, ma questo già avviene, perché certo che durante le partite di calcio a un certo punto c'è la pubblicità del Superenalotto e ci mancherebbe altro, e nessuno si scandalizza per questo. Poi il problema è che qualcuno ne fa un abuso, quindi la ludopatia, che è un problema gravissimo del quale bisogna occuparsi, non è per forza legato a doppio filo dal momento che uno dice noi organizziamo scommesse e paghiamo le tasse su queste scommesse. Sì, ma che il discorso sì. Sia legale è legale, perché io parlo di opportunità, certo. E soprattutto di opportunità quando tutto questo discorso noi lo leghiamo alla nazionale. È quasi come se Olivieri, è quasi come se la nazionale dovesse essere, potesse essere in qualche modo un terreno un po' più neutro, un po' più lontano da questo tipo di pressioni. Noi tesserati, sì. Confronto agli altri cittadini, abbiamo una particolarità. Noi non possiamo scommettere nei bambini, nei grandi, certo. Il tesserato la Federazione Italiana del Gioco Calcio non può scommettere. Questo è un piccolo particolare che in effetti cozza un po' con la legalità di questo genere di sponsorizzazioni. Questo va ricordato. Sarebbe una riflessione però, da fare. Però una battuta è come avere uno sponsor del cioccolato e i calciatori campioni non mangiano tanto cioccolato perché non gli fa bene, e anche se loro non lo mangiano, però può essere che funzioni come sponsor. E qui stiamo parlando di valori, non è che stiamo parlando di pubblicità in generale, stiamo parlando di valori, stiamo parlando di attività che poi alla fine possono nuocere alla persona. Voglio dire, sul pacchetto delle sigarette si avvisano e dicono non fumare è un problema, così, insomma, una campagna educativa per esempio in questo campo è abbastanza ipocrita, anche quello sia ripresa, È abbastanza ipocrita anche scrivere sulle sigarette. Sì. Senta, però le voglio chiedere un'ultima cosa, perché insomma lei è anche un uomo d'esperienza, abbiamo citato prima il Totocalcio. Non tocchiamo l'esperienza, magari. Vabbè, insomma, però in questo caso glielo voglio chiedere. È cambiato, cioè, il rapporto delle persone col gioco, con le scommesse? Prima si giocava appunto una volta alla settimana la schedina Totocalcio, c'erano i casinò per chi voleva andare a scommettere, e molti sportivi e calciatori guadagnavano tanto, spesso sono andati anche a giocare, a divertirsi, però era un po' un mondo a parte. Oggi questo fenomeno della ludopatia lei lo vede attorno a sé, o si parla tanto magari di una cosa che non c'è? No, si parla di una cosa che c'è, è troppo a portata di mano, le macchinette sono troppo a portata di mano, e se andiamo a vedere dove sono piazzate, poi fortunatamente qualcuno ha anche cambiato, ha anche rimediato, perché piazzate in mezzo ad attività dove si fa del sociale, certo, abbiamo assistito, sono casi rari, nelle casse del popolo si è pensato magari di toglierle, nelle parrocchie laddove si è pensato anche perché case di questo genere ci sono stati e hanno fatto anche clamore. Si sta cercando di correggere soprattutto in quei settori, in quelle zone dove lo stare insieme dovrebbe essere ben altro. Certo. E va bene, bello, perché Olivieri usa anche queste espressioni tipo case del popolo, no? Che hanno una sua corrispondenza con la realtà, soprattutto in Toscana, non dimentichiamoci, perché Olivieri in Toscana, e quindi ci sono ancora la casa del popolo. Bene, grazie Olivieri, buona domenica, grazie per essere stato con noi. Grazie mille, buona domenica. E insomma, abbiamo fatto luce anche su questo aspetto. Ah, tra l'altro c'era un altro punto interessante, anche se poi Olivieri ci ha confermato questa notizia, gli introiti della sponsorizzazione Intralot saranno devoluti alle associazioni che si impegnano contro la ludopatia, perché a un certo punto Tavecchio aveva detto ma insomma teniamo questa sponsorizzazione ma non sarà più visibile sulle maglie da nessuna parte, sui cartelloni. E uno si poteva anche domandare, ma a che serve allora una sponsorizzazione se non la vede nessuno? Era un po' misterioso. Se mettono i soldi è un problema loro, il problema ma semmai è a che serve una sponsorizzazione se poi tutti i soldi che ti danno in realtà tu li usi per altre cose e non evidentemente per quello per cui ti serviva la sponsorizzazione. Adesso non serve più a nulla, è un modo per uscirne. Sandro da Terni, buongiorno e benvenuto all'800 24 00 24. Buongiorno. Eccolo qua. Bene. Allora, per me il personaggio è, diciamo, la signora Luciana 13, diciamo insignita questa settimana. Sì. Dal nostro presidente, diciamo, come commendatore. Sì, perché Mattarella ha premiato alcune persone, tra cui questa signora. Diciamo, fra cui questa signora Luciana 13 di Cagliari del 26, che ha, diciamo, avuto questa onorificenza per aver aiutato gli immigrati, praticamente ha insegnato l'italiano praticamente agli immigrati. Bella notizia, Sandro. Siamo contenti di averla ricordata. Sì. La professoressa Luciana 13, nata nel 1926, ma non era il personaggio. Non era lei. Non era il personaggio che abbiamo scelto. 40 grazie. Le persone premiate, credo, a cui Mattarella ha riservato questo riconoscimento. Quindi un saluto anche agli altri. Dino da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per le vostre vostre trasmissioni, vorrei fare i complimenti anche a Barisone e a tutti gli altri, avete una radio eccezionale. Grazie, grazie. Sì, continua a seguirci. Sì. Volevo partecipare per indovinare il personaggio. Prego. Ecco, io ho, il nome non lo conosco, però è quel ragazzo che ha salvato 6 o 7 persone durante il terremoto di un mese fa. Hmm. Il nome però non lo conosco. È bello che uno esordisce dicendo volevo dire il nome che non conosco, però la però, storia la conosce. Il nome non lo conosce, la notizia, però, e la notizia per una, certo fatto, non è di questa settimana, giusto? Ha fatto una cosa eccezionale, secondo me è lui, però... Anch'io credo che non diciamo già non, il fatto che la notizia non sia di questa settimana è un buon indizio. Non è il personaggio che avevamo scelto. Sì, per, in effetti per, no. Non era questo. Sicuramente se lo merita. Nella settimana in cui abbiamo parlato molto di terremoto. E poi se riusciamo nel corso della puntata a trovare anche il nome di questo. Persona che come tanti altri si è impegnato nei soccorsi del terremoto, magari lo diciamo così lo ricordiamo anche. Grazie a Dino, andiamo con Daniela da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io chiamo per il personaggio misterioso. Sì, prego. Secondo me è Flavio Briatore. Perché? Flavio Briatore. Perché quando hanno eletto Trump, poi lui ha dichiarato di essere amico, quindi di conoscerlo e di poter dare delle informazioni sul fatto che è comunque una persona affidabile. Ecco. Ah, non era lui. Non era lui. Eravamo curiosi di capire quale fosse la notizia, perché diciamo dire è un mio amico non è esattamente una notizia, lo sapevamo tutti di Briatore e Trump. Beh, che il si... ministro Boschi ha anche detto che... forse ce lo troveremo come ambasciatore, insomma. Sì, quella era una battuta che ha fatto la Boschi. Sì, sì. Certo, Briatore, giustamente. Beh, ha vissuto un momento di gloria perché essendo amico in qualche modo di Trump, che hanno eletto presidente degli Stati Uniti, quindi tutti quelli che hanno un po' festeggiato hanno vissuto con lui dei momenti di gloria. Vogliamo a questo punto ricordare gli indizi e aggiungere qualcosa, Carlo? Diamo un secondo indizio. Sì. Il personaggio che stiamo cercando ha perso qualcosa. Quindi in realtà avete detto Trump, che non era, avete detto... cioè, oltre ad aver vissuto un momento di gloria, però ha perso qualcosa questa settimana, questo personaggio. Quindi 800 24 00 24, pensate, bene. Noi che non vuol dire che non abbia mai vinto, perché a volte... così esageriamo, così siamo una svendita di indizi, vai. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Eccoci qua di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Ancora un ascoltatore, Franco da Chiavari, buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Volevo partecipare al personaggio misterioso. Sì. Prego. Secondo me è il figlio di Trump che ha sbadigliato durante un comizio o un'intervista del nuovo presidente. E quindi che cosa avrebbe perso? E quindi no, durante l'intervista ha perso il sonno, Beh, si è anche perso dei gran pezzi del discorso del padre, direi. Erano solo dei ringraziamenti, quindi. Beh, avrà vissuto sicuramente anche lui un momento di gloria in quanto il padre è nuovo presidente della Stati Uniti, ma non è lui il personaggio. Non è lui. Franco è arrivato vicinissimo, però, no, in realtà però non c'entrava era nulla. Era in Leeds, no, un pochino. Era in Leeds a un certo punto, eravamo anche interessati a questa storia, era però un non è quella che abbiamo perché scelto. Corrispondeva in effetti esattamente agli indizi, quindi Franco è stato bravo, molto bravo, avrebbe potuto anche vincere se invece non avessimo cambiato personaggio prima di iniziare il programma, assolutamente. Non pensiamo a delle cose così, visto che abbiamo parlato di correttezza sportiva e di lealtà. Ancora alla ricerca di un personaggio che ha vissuto sì un momento di gloria, ma ha anche perso qualcosa. 800 24 00 24. spero che, cioè, che tutte queste istanze, queste cose che si dicono nei convegni potessero avere un reale seguito nella vita delle persone. Poi io ci tengo moltissimo che se la Valeria può essere un esempio, che sia un esempio che non solo per i giovani ma per le persone adulte che hanno responsabilità di questi giovani possa essere un incentivo a valorizzarli di più. Lei era Lucia Milani, la mamma di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice e studentessa scomparsa un anno fa nella strage del Bataclan in occasione di un riconoscimento che è arrivato alla Università Ca' Foscari di Venezia questa settimana, a un anno da quella terribile giornata ieri sera al Bataclan. Sting, che sentiamo, ha riaperto il locale. Riaperto il locale. Con noi dall'altro capo del filo, da Parigi, Leonardo Martinelli. Ciao Leonardo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, com'è andata questa serata? Ma è andata bene, nel senso che, appunto, come potete immaginare, il Bataclan è un simbolo incredibile. Per mesi ci si passava davanti, era tutto, diciamo, chiuso, barricato, si vedevano che c'erano dei lavori, la direzione del teatro non ha voluto mai far entrare nessuno, neanche i giornalisti, avevano detto, e secondo me giustamente, che solo la sera proprio di l'apertura di un concerto avrebbero appunto permesso agli spettatori e anche ai giornalisti di vedere il teatro. Così è stato. Sting probabilmente è stata una delle scelte migliori, anche perché va detto, così almeno hanno ammesso i direttori, il direttore del Bataclan, nessun artista francese ha voluto fare questo concerto inaugurale, quindi non è che ci fosse neanche questa scelta grandissima. Come mai hanno tutti rifiutato? Perché comunque è un po', non so come dire, un tabù, è qualcosa... È un tabù, pesa ancora molto il ricordo di quello che certo, è accaduto. Certo, si fa un po' finta di nulla da un certo punto di vista, però... quel ricordo pesa. Non deve essere stato facile. C'era gente ieri sera al Bataclan? C'erano allora, la capienza del teatro è di 1500 persone e ovviamente c'era il sold out per questa. Le persone ci sono state anche perché c'erano molti superstiti o famiglie anche delle vittime che in qualche modo con una serata del genere volevano anche esorcizzare. Certo, appunto, perché erano anche stati, erano stati invitati tutti dal Bataclan, tutti allora i parenti. Erano già stati invitati qualche mese fa, però probabilmente, insomma, entrare... Io negli ultimi giorni, proprio per la stampa, ho intervistato uno dei superstiti che mi ha detto che lui in realtà con un piccolo gruppo di superstiti è entrato dentro il Bataclan un mese fa e che per lui era una cosa importante. Immagino che per qualcuno che appunto è uscito da quella indenne, diciamo, da quella tragedia, sia qualcosa di importante andare lì, forse per altre persone no, ma per molti certo. Sì. Diciamo anche una cosa, visto che abbiamo parlato di sponsorizzazioni e di lealtà sportiva, per un altro argomento nazionale di calcio, Sting ha detto che l'incasso verrà devoluto tutto a due fondazioni. Fondazioni proprio che rappresentano sì. Proprio questi superstiti. No, lo dico perché gli ascoltatori, che già me li immagino che sono pronti a caricare il dito per telefonare e dire hanno fatto i soldi sulle spalle. E anche il Bataclan ieri sera ha fatto appunto il sold out con Sting, ma oggi rimarrà chiuso in segno di lutto e da quello che abbiamo letto ci sarà anche una cerimonia durante la quale sarà scoperta una targa commemorativa. Sì, da stamani sono iniziate varie cerimonie, la prima allo Stade de France, allo stadio dove appunto iniziò, diciamo, la carneficina di quella sera, e proprio Hollande è andato appunto a una cerimonia dove è stata inaugurata questa lapide in ricordo proprio delle vittime di quella sera. Certo, per esorcizzare, diciamo così, questa settimana la Francia non si è fatta mancare un suo grande classico, le manifestazioni, le proteste che sono nella tradizione proprio francese. C'è stata questo anche in Francia, questa forma inedita, nuova in qualche modo, di sciopero, le donne che a un certo punto, a un certo orario della giornata interrompono simbolicamente o in alcuni casi anche davvero la loro giornata di lavoro, qui alle 16:34 minuti, per testimoniare che cosa? La differenza di parità di salario, le donne francesi. Sì, hanno calcolato, in realtà poi è un calcolo molto difficile quello appunto della differenza di salario tra uomini e donne, soprattutto tra uomini e donne che siano, diciamo, dello stesso livello, diciamo, professionale. dello stesso livello di carriera. Comunque in Francia hanno calcolato questa differenza al 15%, quindi un'organizzazione di femministe ha calcolato che appunto lunedì scorso alle 16.34 e 7 secondi praticamente dopo quell'orario le donne avrebbero, come dicevano loro ironicamente, lavorato benevolmente, perché appunto per il resto dell'anno lavorano ma non vengono pagate, cioè, e quindi lavorato gratis, invece i propri colleghi maschi continuano a essere pagati fino alla fine della giornata. Siamo sempre diciamo stupiti, che non, è, però, non era proprio un vero e proprio sciopero, perché ovviamente le donne non potevano abbandonare il posto di lavoro, però hanno organizzato, ed è stato veramente molto seguito, hanno organizzato dei meeting, delle riunioni in tante aziende, molte poi fisicamente si sono ritrovate nella solita Place de la République qui a Parigi, che è un po' l'ombelico, diciamo, della Repubblica Francese, a discutere, e soprattutto c'è stato un grandissimo dibattito su internet, in particolare su Twitter. Questo della differenza del salario è un argomento, diciamo, di cui si parla molto in Francia, di cui si parla anche molto in altri paesi, anche perché la Francia non è assolutamente prima della classe nel settore, perché appunto ha questa differenza che la posiziona, diciamo, nella media, se non nella fascia medio-bassa a livello europeo. E noi siamo sempre un po' stupiti di vedere che in altri paesi come la Francia, che consideriamo tante volte per molti aspetti un paese guida anche da un certo punto di vista, sono invece alle prese con le stesse problemi che abbiamo noi pari. E pensare che le donne avevano la grande opportunità nel mondo votare Hillary Clinton e invece hanno votato per Trump. A parte gli scherzi, ma chissà poi se avrebbe in qualche modo intaccato i problemi delle donne Hillary Clinton in America. Questo la media degli stipendi l'avrebbe alzata negli Stati Uniti per le donne. Con il suo, sicuramente con il suo. Ma la questione di cui abbiamo parlato è riguarda anche le giovani donne, le nuove generazioni, Leonardo, o sono più le anziane, ma insomma le storiche femministe che sono prese da questo tipo di battaglia? Io direi che anche le donne sono molto giovani, sono molto battagliere da questo punto di vista in Francia, anche perché è un problema effettivo. Poi, ripeto, è una questione molto complessa, perché ad esempio nel tasso di occupazione delle donne la Francia è abbastanza alta, sicuramente molto più alta che l'Italia, quindi ci sono, diciamo, tante donne che lavorano, quando poi la donna ha un figlio ha anche, diciamo, tutta una serie di aiuti che in altri paesi come l'Italia non esistono, soprattutto contributi per avere ad esempio una babysitter a casa, quindi voglio dire è un paese che resta da certi punti di vista, non dico all'avanguardia, ma comunque un paese dove c'è una certa tutela. Però proprio sulla differenza di salario anche in Francia hanno ancora grossi problemi da risolvere. Leonardo, noi volevamo chiederti una cosa anche su, ma sì dai, abbiamo ancora 30 secondi, perché a Parigi ha inaugurato uno strano museo, un nuovo genere di installazione, la street art, no? E ormai c'è questo percorso di istituzionalizzazione di questa arte, un percorso strano, curioso, ma insomma, com'è andata? Ma sta andando molto bene perché ha molto successo. Io tra l'altro l'ho visitato, devo dire, a me, io non sono un esperto di street art, però a me è piaciuto tantissimo. Hanno concentrato una serie di capolavori, una cinquantina di capolavori della street art in uno spazio tra l'altro molto interessante, perché è l'École 42, la scuola 42, una scuola di informatica creata da Xavier Niel, che è un imprenditore molto conosciuto qui in Francia. Quindi hanno messo queste opere d'arte in mezzo, diciamo, alle sale dove studiano gli studenti, e uno ci va mentre gli studenti sono al computer a fare dei programmi informatici. Una strana sensazione, quindi immagino. È una cosa un po' buffa, diciamo che questi studenti danno proprio l'idea di non interessarsi assolutamente a queste opere d'arte. Non gliene potrebbe fregare di meno. Sì, sono due mondi che secondo me proprio non si incrociano, ma alla fine non si incrociano neanche tanto. Questo almeno l'incrocio, diciamo, era un obiettivo degli organizzatori, ma secondo me non è molto riuscito, perché questi se ne stanno incollati al computer, sono anche un po', insomma, scocciati da tutto questo passaggio di gente. Però lo spazio è un edificio, diciamo, avanguardistico, fatto da un grande architetto in una zona un po', diciamo, quasi periferica della città, quindi è anche abbastanza adatto a questo tipo di installazioni, e ci sono delle opere molto belle. Io ripeto, non sono un esperto, ma ho scoperto degli artisti, anche un italiano che si chiama Blu, è molto famoso, non ero un esperto e non lo conoscevo, e sinceramente era proprio bellissimo, insomma, si vede anche come ci sia stata un'evoluzione nella street art, proprio nella capacità di disegnare molto bene, insomma. Assolutamente, ripeto, questo percorso anche di istituzionalizzazione della street art pone anche dei punti interrogativi agli certo. appassionati delle origini, ma insomma noi registriamo come sempre grazie a te Leonardo da Parigi la cronaca dei fatti. Un grande abbraccio, a presto. Anche a voi, grazie, grazie mille. E per gli ascoltatori invece il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Special offer, guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb. E allora, sì, prima di andare a fare visita all'Emporio della Solidarietà di Napoli, una iniziativa di cui tra poco parleremo, ancora un ascoltatore, Stefano da Garbagnate, milanese. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Buongiorno a voi e, come si suol dire, complimenti per la trasmissione. Grazie. Bene. Vorrei partecipare al vostro personaggio misterioso e... secondo me, non ricordo il nome, ma il cognome. Un altro Garozzo. Che non, ma non ricordate mai il nome, come mai? Che è successo? Il nome, però mi ricordo il cognome, sì. Che è Garozzo, e dovrebbe aver perso e poi ritrovato, o perlomeno ha perso sul treno, o forse l'è stata sottratta e poi ritrovato in un cassonetto, la sua medaglia alle più recenti Olimpiadi. Yeah, e insieme all'applauso ti diciamo anche che il nome è Daniele Garozzo, tiratore di scherma, che ha vinto la medaglia e poi l'ha persa, l'ha ritrovata, appunto, come dici tu, non si sa bene come sia accaduto la tutto questo. La magistratura sta indagando, sappiamo questo, ma l'ha ritrovata in un cassonetto, quindi per noi era anche un po' una storia di rifiuti e di differenziata, e quindi eravamo molto interessati. Va bene, grazie Stefano, complimenti, ti porti a casa i biglietti della mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. E adesso, come detto, andiamo in provincia di Napoli, per l'esattezza a Monteprocida, dove ha aperto pochi giorni fa l'Arca, l'Emporio della Solidarietà, un progetto innovativo, un social market, un supermarket, come cantavano i Clash, innovativo. L'innovazione sta nel fatto che le famiglie che hanno bisogno di questi aiuti possono ricambiare non pagando viva moneta, ma con ore di volontariato. Ed è con noi Anna Gilda Gallo. Buongiorno. Buona domenica. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica a voi e auguri per la trasmissione. Grazie. Anna Gilda Gallo, presidente della casetta Onlus di Bacoli. Allora, ci racconti un po' di questo progetto. Allora, il social market nasce tra Bacoli e Monte di Procida ed è un progetto dedicato a 40 famiglie, 20 del Monte di Procida e 20 di Bacoli, scelte in rete dalle istituzioni dei servizi sociali del territorio. È un progetto prettamente privato, sostenuto da una grande fondazione che si trova a Milano, che è l'Arca, e che da molto tempo, da più di 4 anni, noi ci siamo incontrati e da allora non ci siamo mai più lasciati. Una fondazione che crede pienamente nella realizzazione dei progetti che vengono fatti nel territorio, certo, del sud, e quindi ringrazio tale fondazione per la fiducia. Assolutamente. La cosa interessante, innovativa, diciamo, è questa possibilità. La cosa innovativa è questo. Sì. Molti si chiederanno a che cosa porterà un social market. Rappresenta, sì, non solo un punto di partenza per le famiglie meno fortunate del territorio, ma sarà soprattutto un punto di partenza per un progetto che rende le stesse famiglie una risorsa per il loro territorio. Come sarà possibile questo? Attraverso un periodo di formazione che miri a far emergere le attitudini e le aspirazioni di ognuno, impegnandoli in seguito in attività di volontariato presso istituzioni pubbliche. Certo, da fruitori di un aiuto si diventa anche fornitori in qualche modo di un servizio, di si un contributo. È una cosa importante, le ricordo anche che questo progetto, vado veloce perché siamo in chiusura, avviene grazie. Senza fondi pubblici, assolutamente, quindi tutto finanziato dal privato sociale e anche con coinvolgendo, proprio attivando proprio le risorse di queste persone. Grazie Annalgilda. Grazie mille. Gallo, noi dobbiamo chiudere però, avevamo poco tempo purtroppo per questo progetto. Ricordo solamente una cosa, che venerdì 18 novembre alle 20:30 sono a Book City a Base, che è in via Bergognone 34 a Milano, vicino a casa mia, di nuovo grazie, per il libro in realtà insieme ad altre persone a parlare di mondo LGBT. Grazie Andrea Pianana, Lorenzo Nespoli, Carmelo Loricella, regia Claudia Schiattone, ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, anche chi ci ascolta in podcast. Ciao.